Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane e andremo avanti fino alle ore 21.30, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda in diretta radiofonica ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30 e comunque era il brano Retribution dei Behind Enemy Lines e comunque siamo qui da Udine, via Volturno, ma andiamo con quella che è la presentazione del prossimo disco che ascoltiamo. Loro è una band di Viterbo e ha esordito musicalmente nel 2007, ma noi ci ascoltiamo una tra le loro ultime uscite che è datata 2017 ed è il 7 pollici Noise Treatment. Loro sono i Neid da Viterbo. Saluto, una buona serata anche da parte mia per questa puntata di Zardins Magnetics del 10 novembre 2022 qui dagli studi di Onde Furlane che ci ospitano a Udine in via Volturno per la consueta ora e mezza di informazione, controinformazione, così parole contro la repressione, contro il carcere, per diciamo un mondo in rivolta. E, il programma di questa sera sarà il seguente: primo blocco di aggiornamenti, diciamo, sulla situazione di Alfredo, sulle iniziative varie. Poi avremo una lettura di un contributo di una compagna, che è Anna Beniamino, che ha aderito allo sciopero della fame. Poi avremo una parentesi sulla situazione di Via Spalato di questa settimana, delle notizie tragiche, e ancora degli aggiornamenti brevi, insomma, su una sentenza di oggi sulla situazione cioè sulla questione delle occupazioni abitative a Milano, un quartiere di Milano specifico, che oggi è andato a sentenza di primo grado. E infine l'ultima parte, diciamo, quella che riguarda un po' l'approfondimento su due articoletti che erano usciti nel numero di quest'estate dei Giorni e le Notti. Quindi io direi che possiamo, adesso io vado così un po' a braccio questo sottofondo con le varie iniziative recenti e non, diciamo, in Italia e fuori, in solidarietà al compagno Alfredo Cospito, che ricordiamo ha iniziato uno sciopero della fame contro il 41 bis e contro l'ergastolo ostativo. Ha iniziato il 20 ottobre, quindi oggi siamo al 22esimo giorno di sciopero della fame consecutivo. alla sua protesta hanno aderito il 25 Juan Sorroque dal carcere di Terni, compagno anarchico spagnolo condannato a 28 anni per l'attentato alla sede della Lega Nord di Villorba di Treviso. Due giorni dopo, il compagno anarchico Ivan Allocco, che è, diciamo, incarcerato in Francia, però è piemontese, ha anche lui aderito allo sciopero della fame, il 27, ripeto, e ultima di questa settimana, lunedì 7 novembre, Anna Beniamino, che è coimputata con Alfredo Cospito per l'inchiesta cosiddetta Scriptamanent, ed è appunto rischia anche lei la condanna all'ergastolo per strage politica. Anche Anna Beniamino ha iniziato lo sciopero della fame dalla sezione femminile del carcere di Rebibbia. Allora, a parte Cospito, che Alfredo, che è in 41 bis, quindi c'è la censura, c'è il blocco della posta, non so se ha grande senso scrivergli. Comunque, Juan Sorroque, il suo indirizzo è Strada delle Campore 32 0500 Terni. Ivan Allocco, che è in Francia, adesso non ve lo leggo l'indirizzo perché farei degli strafalcioni, poi dico dove potete recuperarlo. Anna Beniamino, dicevo prima, via Bartolo Longo 92 00156 Roma, che è il Rebibbia femminile. Alfredo è a Bancali, in provincia di Sassari. E tutte queste notizie e gli aggiornamenti quotidiani su tutte le mobilitazioni in corso in Italia, anche all'estero, in tutto il mondo, le ritrovate nel blog irrovescio.info, nella, diciamo, sezione rompere l'isolamento. È molto immediato trovarla, cliccate proprio sul non so come si chiama, banner, quello in principio, diciamo, e ripetiamo, diciamo, insomma, per i non insomma così per i neofiti, il rovescio è nient'altro che il blog degli anarchici trentini. Quindi, in ordine adesso di, come si chiama, in ordine cronologico inverso, ovvero a partire dal 9 novembre, che era ieri, ad Atene c'è stato un enorme sciopero generale, un enorme corteo ad Atene, come non si vedeva dal 2012. Il più grande sciopero generale dal 2012 contro l'aumento dei prezzi. Sì, questo è una parentesi che apro. Insomma, ci sono stati anche degli scontri con lancio di molotov, Grecia si usa, sì, è una cosa, è una consuetudine. Sono stati lanci di molotov davanti al Parlamento proprio di Atene, e quindi contestualmente a queste proteste sono apparse alcune scritte in solidarietà a Alfredo, Juan, Ivan e Anna sui cancelli del Politecnico, esattamente di fronte alle finestre dell'Istituto Italiano di Cultura di Atene, e trovate anche le fotografie. Insomma, solidarietà a Alfredo Cospito in sciopero della fame contro il regime 41 bis, 41 bis uguale tortura, solidarietà ad Alfredo in sciopero della fame, eccetera, insomma. Questo è ieri, quindi 9 novembre. Oggi ad Amburgo, al porto di Amburgo, che è il più grosso porto d'Europa, il più grande porto d'Europa, ci sono comparsi dei graffiti, insomma, sono le fotografie in solidarietà al compagno Alfredo Cospito. Poi altre scritte, invece veniamo all'Italia, abbiamo insomma delle scritte comparse sulla strada della Prica, che è in Valtellina, in Lombardia, una scritta bella, insomma, chiare lettere, insomma, sul nero su bianco, diciamo, 41 bis uguale tortura, Alfredo Libero. Delle scritte sempre in Lombardia. In Lombardia sono stati appesi degli striscioni su questo ecomostro, di cui io non conosco, che è sulla piattaforma del Belvedere a Lecco, Piani dei Resinelli, sarà sul lago, immagino io. È una cosa un po' acrobatica, l'hanno appesa ai piloni di questa, diciamo, passerella, così, su un orrido, da quello che si vede sulla fotografia. Oltre allo striscione sono stati affissi volantini sulla piattaforma nei dintorni, solidarietà con Alfredo, Juan, Ivan in sciopero della fame contro 41 bis ergastolo ostativo. Poi ci sono due attacchi che sono stati, diciamo, la notizia di due attacchi a incendiati camion della Mar a Anzola dell'Emilia, provincia di Bologna. La Mar è un'azienda da anni coinvolta nel rifornimento dei pasti, carceri e centri di espulsione. Il suo profitto si regge sulla reclusione di migliaia di persone. Quello che abbiamo fatto è per tutti i pasti di merda che consegnano. Siamo con Alfredo Cospito, prigioniero anarchico nella sezione 41 bis del carcere di Bancali, in sciopero della fame dal 20 ottobre contro 41 bis e ostativo, con Ivan Allocco, Juan Sorroca e Anna Beniamino, prigionieri anarchici che hanno aderito allo sciopero della fame unendosi alla lotta di Alfredo. Ok, questo era Anzola dell'Emilia. Poi un'altra ancora, sempre di oggi, è un attacco incendiario contro un'antenna a Grugliasco vicino Torino, è sabotata col fuoco, antenna 5G, Alfredo Cospito fuori dal 41 bis uguale tortura per l'anarchia. Ecco, queste erano le cose principali. Prossimamente, cioè nient'altro che sabato, questo, il 12, è prevista una mobilitazione per Alfredo contro 41 bis a Roma. Si parte da, cioè, il ritrovo in piazza Gioacchino Belli alle ore 15, e partecipano da tutta Italia, ovviamente, presumo anche da fuori. E sì, c'è la chiamata, insomma, la trovate, ripeto, sto leggendo sempre da il rovescio. Questa era, diciamo, le cose più importanti. Poi ci sono anche molte altre, diciamo, interventi, diciamo, per portare da focalizzare l'attenzione su questa lotta di Alfredo, che è emerso tra l'altro che il 1° dicembre avrà ci sarà il riesame, ecco, sul 41 bis. Si vedrà, insomma, manca ancora una decina di giorni, no, manca ancora una ventina di giorni, quindi non è proprio tanto immediato. Comunque prima neanche si sapeva la data, è già qualcosa. E ultima, dicevo, quest'altra azione che è stata fatta al Tribunale di Torino, dove era prevista una delle ultime udienze del primo grado dell'inchiesta Scintilla, se ricordate, sempre nel 19, nella primavera del 19, era più o meno quando è stato sgomberato l'asilo. C'è stata anche questa inchiesta dove erano costruita un'accusa sulla partecipazione sulle lotte, diciamo, appunto, di questi compagni contro i centri di espulsione per immigrati. E in questa occasione, appunto, alcuni solidali hanno preso la parola e hanno preso la parola per portare alla conoscenza del giudice, del presidente, del, come si chiama, del, insomma, del giudice, adesso mi spugna, della corte, ecco, la situazione del prigioniero anarchico Alfredo Cospito, rinchiuso in regime 41 bis, eccetera, al 19° giorno di sciopero della fame a oltranza. Prendiamo parola perché possiamo farlo, al contrario di Alfredo, che è stato messo a tacere con un semplice click dell'audio in videoconferenza. Non possiamo e non vogliamo lasciare che il suo sciopero passi sotto silenzio. Esprimiamo anche nell'aula di questo tribunale la nostra solidarietà con Alfredo, perché il regime di 41 bis nel quale lo avete rinchiuso smetta di esistere e l'ergastolo ostativo venga abolito, affinché nessuno sia sottoposto a questa tortura portata avanti dallo Stato. Ehi, vuoi dare una mano a un fratello? Che ti serve? Voglio che metti un pezzo un po' diverso. Sai, come quando la musica era ancora musica, quando aveva un po' di anima. Ah, parli della vecchia scuola? Vecchia scuola, sì. Certo, non va molto quella roba da queste parti. Sì, ma stasera potrebbe essere diverso, ok? Il 20 ottobre Alfredo Cospito, nel carcere di Bancali, Sassari, ha iniziato uno sciopero della fame ad oltranza contro il regime 41 bis e l'ergastolo ostativo. Il regime 41 bis gli è stato riservato dal maggio di quest'anno, reo di mantenere dalle sezioni di alta sicurezza, dove si trovava da anni rinchiuso, rapporti epistolari ed attività editoriale con il movimento anarchico attraverso scritti pubblici ed interventi. L'ergastolo ostativo rischia di essere lo sbocco del rinvio in appello operato dalla sentenza di Cassazione del luglio 2022 del processo Scripta Manent per il ricalcolo della condanna approdata alla qualifica di 285, strage politica, per un duplice attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano, a firma Fai Rat. La condanna per 285 costituisce la chiave di volta di un'architettura accusatoria che ha sancito l'esistenza di un'associazione eversiva con finalità di terrorismo, costituita da soli tre promotori e con una esistenza a singhiozzo, per ovviare alle contraddizioni dovute agli esiti di precedenti processi. E l'attività di istigazione per blog e giornali anarchici editi dai condannati nel corso degli ultimi 20 anni. Insomma, una sentenza mostro dove si è capi factotum di un'associazione dai contorni incerti, nonché istigatori e rei di una strage mai avvenuta e soprattutto mai difesa in quanto tale, ovvero, come è capitato ripetutamente di affermare in tempi non sospetti, la violenza rivoluzionaria è difesa dagli anarchici e da me tra questi lo stragismo no. Ciò che le carte dei tribunali e le direttive dei servizi e degli apparati di prevenzione chiamano variamente eversione interna o terrorismo e che viene racchiuso in una serie di reati come associazione sovversiva, strage, devastazione e saccheggio, attinti pari pari dal codice Rocco ancora in auge, sono in realtà tasselli della tensione rivoluzionaria e della ricerca di libertà e giustizia sociale. Che quest'ultima e la giustizia somministrata dai tribunali siano mondi antitetici non è una novità per chiunque abbia un minimo di conoscenza delle vicende storiche e politiche dei movimenti, delle idee e delle pratiche refrattarie allo status quo. Più è grande e complessa l'accusa, più è difficile riportare gli eventi sul piano della realtà. Su questa falsa riga ci si ritrova da imputati in processi dalle verità farsesche, dov'è l'identità politica e non i fatti a costruire il reato, a seppellirti vivo. Il 41 bis è la forma più raffinata di annientamento psicofisico tra le varie gradazioni offerte dal carcere. Una tortura in guanti bianchi basata sulla deprivazione fisica, sensoriale e intellettiva, sulla rescissione dei vincoli amicali e sentimentali. Un'ora di colloquio al mese, con vetro, con i familiari spesso costretti a viaggi di centinaia di chilometri per effettuarli, con parenti e affetti spesso visti come sodali stessi dell'associazione, con tutto quello che questo comporta in termini di allontanamenti, pesantissime limitazioni di studio e di lettura, che sole potrebbero cautelare l'individuo dallo spegnimento cerebrale, con una lucidità già messa alla prova dalla mancanza di confronto e socializzazione minima, in un quasi isolamento che si prolunga per anni, spesso a vita. Quotidiani censurati in toto o parzialmente, 10 canali televisivi e psicofarmaci come possibili palliativi a perfezionare il trattamento. D'altra parte, TV e psicofarmaci sono le colonne portanti del mantenimento del controllo carcerario nella sua interezza. Sezioni comuni sovraffollate, tonnare d'anime dove medicalizzazione e infantilizzazione dell'individuo regnano sovrane. Al 41 bis, per la sua manifesta durezza, volta a spezzare l'individuo, gli stessi legislatori avevano conferito una durata limitata nel tempo a 4 anni . Anche il waterboarding ammette pause, pena l'annegamento del malcapitato, e qui un bel punto esclamativo. Una durata limitata del tempo a 4 anni, che poi, con un procedimento burocratico tipico della feroce democratica a bassa intensità, di proroga in proroga, da emergenziale è diventato ordinario. Santificato dall'incultura forcaiola e manettara, il carcere duro e il feticcio spauracchio di una società che si vorrebbe, secondo la vulgata mediatica, sempre più spaventata dalle emergenze e bisognosa di sicurezza, da placare con un progressivo e plateale inasprimento delle pene e ingigantimento della narrazione della portata dei reati. Il feticcio della sicurezza è usato per distogliere l'attenzione di una società al collasso politico, economico, sociale. Ho condiviso anni di vita, idee, discussioni, rabbia, risate e amore per la libertà con un compagno anarchico, con gli anarchici. Non saranno i regimi differenziati di una galera o le infamie di un processo certo capaci di offuscarli. Per questi motivi, perché solidarietà e giustizia sono un cadavere in bocca ai legislatori, un fiore tra i denti di individui liberi. Perché, per chi ama la vita, reagire quando viene trasformata in sopravvivenza è un atto dovuto. Da lunedì 7 novembre inizia uno sciopero della fame contro il 41 bis. In solidarietà ad Alfredo, in sciopero della fame dal 20 ottobre, a Juan, dal carcere di Terni, dal 25 ottobre, e ad Ivan, dal carcere di Villepinte in Francia, dal 27 ottobre, che hanno intrapreso uno sciopero per gli stessi motivi. Con amore e rispetto per tutte le compagne e compagni che hanno lottato, lottano e lotteranno per gli utopici sentieri della libertà e della negazione dell'autorità, senza vendere i loro sogni al miglior offerente. Devi fare attenzione con questi, voglio dire loro, i tempi cambiano. Questi non rispettano la vecchia scuola. Ah, balle! Non c'è un'altra scuola come la vecchia scuola e io, porca troia, sono il preside! È per questo che viene da me. Capito? Lontano, sempre più lontano, sempre più distante da te. Ecco, di nuovo in diretta per questa puntata di Zardins Magnetics che non vi abbiamo salutati come si deve. Salutiamo chi ci ascolta dalla diretta, diciamo, in FM qui Udine dintorni, Friuli, chi ci ascolta da tutta Italia e anche fuori in streaming diretta, chi ci ascolta il venerdì pomeriggio in questo momento sulla web radio Radiazione, e infine chi ci ascolta quando ha più comodità dal podcast, diciamo, del nostro programma, che trovate sul blog Zardins Magnetics Radio, noblogs.org. E bando alle ciance, perché andiamo al prossimo, diciamo, tema, che è un tema, diciamo, lugubre, ovvero lunedì 7 novembre è stato trovato in fin di vita un ragazzo di 22 anni, un giovane detenuto a Udine in via Spalato, nella galera infame di via Spalato, dove si è sovranumero da sempre in la popolazione. E la notizia è uscita sui quotidiani locali il giorno dopo. Io adesso vi leggo da Udine Today: giovane di 22 anni trovato morto in carcere a Udine. Si tratta di un detenuto che era stato trasferito da Trieste lo scorso 22 settembre in Italia, il 74esimo suicidio in carcere, io dico fra virgolette suicidio. E cosa emerge da questi fatti riportati in questo quotidiano, diciamo, questo media mainstream? Il giovane era stato arrestato nell'agosto 2021, era stato condotto, diciamo, al Coroneo a Trieste con un'accusa di tentato omicidio. Poi aveva avuto per un periodo i domiciliari, dice il garante della città di Udine, il garante dei detenuti, per un periodo i domiciliari, poi era stato colto in un momento, diciamo, fuori dagli orari, insomma, in cui era autorizzato ad uscire, e per cui era stato senza preavviso, e quindi era stato rinchiuso di nuovo in carcere, però non si sa perché, dice Corleone, a Udine. Era venuto a un diverbio, insomma, era successo un diverbio col compagno di cella, riportano questi qui che vi sto leggendo, e poi il diverbio si era allargato anche a una guardia e lo avevano portato nella stanza di isolamento, quindi in via Spalato, in isolamento con sorveglianza particolare, dicono. L'ultima guardia gli ha parlato alle 15 immagino lunedì, e poi lo hanno trovato in fin di vita e che hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare, eccetera. Poi parte il pistolotto, diciamo, garantista di Corleone. Ma noi saremo presenti sabato 12, che è dopodomani, per un saluto, e sicuramente lì ci arriveranno degli aggiornamenti, delle notizie ben più, insomma, realistiche, più di come sono andate le cose. Tra l'altro martedì stesso c'è stata una protesta che è stata rimandata su Telefriuli, dove appunto questi di Telefriuli si lamentano i detenuti per la qualità del cibo, poi tutto da vedere cosa in realtà qual era il contenuto delle proteste, perché tutto, insomma, è tutto ci arriva tutto masticato da questi qui che sono i soliti sindacati delle forze dell'ordine, queste figure garanti che sono ammanicati con le istituzioni stesse, magistrati e quant'altro, insomma, mancano solo i preti. E noi adesso mandiamo magari un breve estratto della battitura in via Spalato dell'altra sera. Sono sempre qui in diretta, siamo in diretta qui dagli studi di Via Volturno a Udine per Zardins Magnetis, sono le 20:53, quindi vi confermo, insomma vi annuncio, vi confermo che sabato a partire dalle 14:30 ci sarà un presidio in solidarietà con i detenuti del carcere di Via Spalato, quindi zona via Spalato, precisamente via Ragusa, andremo a portare la nostra solidarietà e saluti, diciamo, a questi detenuti in lotta del carcere di Udine. Passiamo quindi a questo punto a ancora un altro argomento, per il quale c'è anche un altro inserto audio che manderemo. È la notizia di oggi, che dopo appunto anni di questo procedimento è andato a sentenza. Sto parlando dell'inchiesta tra virgolette Robin Hood, che coinvolgeva 9 solidali del comitato base di solidarietà popolare del Giambellino e Lorenteggio a Milano. Giambellino e Lorenteggio è un quartiere popolare speciale di Milano, è il quartiere non solo di Enzo Iannacci, ma anche degli anni 60, ma anche di Valanzasca, anche dei Morlacchi, insomma tutta la famiglia Morlacchi, e quindi è un quartiere storico di lotte di Milano, popolare, conosciuto anche fuori Milano, ecco. E lì si erano organizzati con questo sportello, ve lo racconterà insomma l'avvocato. La notizia che adesso vi do è che oggi appunto a sentenza il tribunale ha condannato con pene da un anno fino a 5 anni questi solidali, è una cosa gravissima, per associazione a delinquere, quindi reato associativo, per quello sono così pesanti. Si parlava anche l'altro giovedì di questa questione qua dei reati associativi, una roba da fascismo puro, cioè i compagni appunto gestivano, davano una mano a quelli che non trovavano le case, dove appunto lì se ti metti in lista per le case popolari te le danno fra 20 anni, se te la danno. Sono problemi gravi, insomma, robe non da poco, e questi qua li hanno accusati, li hanno costruito tutto questo apparato di accuse e dicono che gestivano un racket delle occupazioni, robe da, se non fosse da, sì, non fosse tragico sarebbe da ridere, però c'è poco da ridere. Mandiamo quindi, se la regia è pronta, questo contributo dell'avvocato Losco. Radio Onda d'Urto, andiamo a Milano, dove si è chiuso mercoledì 9 novembre il processo milanese a carico di 9 compagni del comitato abitanti Giambellino Lorenteggio. I 9 imputati nell'inchiesta Robin Hood sono stati infatti tutti condannati in primo grado dal Tribunale di Milano. Secondo l'accusa, sono stati promotori di associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica. Le pene pesantissime vanno da 1 anno e 7 mesi a 5 anni e 5 mesi. Con noi per parlarne c'è collegato telefonicamente l'avvocato della difesa Eugenio Losco. Un saluto a te. Un saluto anche a te, ciao e buongiorno a tutti. Allora, questo processo, iniziato se non sbaglio nel 2018, e più in generale l'inchiesta dal nome Robin Hood per denunciare attivisti e attiviste che sostengono famiglie in difficoltà nel milanese, innanzitutto a cosa fa riferimento? Allora, l'inchiesta, come hai detto tu, è un'inchiesta che è terminata nel 2018, un'inchiesta su cui la Procura di Milano e gli operanti, in questo caso i carabinieri, hanno investito molto, un'inchiesta durata anni, per cui gli indagati sono stati sottoposti anche ad intercettazione telefonica per un lunghissimo periodo di tempo. Questo nonostante, stiamo parlando di un comitato di aiuto per le persone che si trovano in difficoltà nel quartiere, soprattutto per una situazione abitativa. Comitati come ce ne sono tantissimi, non solo a Milano ma in tutta Italia, perché bisogna un po' contestualizzare di quello di cui stiamo parlando. Hai detto che l'indagine si chiamava Robin Hood. In realtà questa è una espressione che poi è stata usata dagli stessi operanti, anche dalla procura, ma è un nome che è stato dato da alcune testate giornalistiche. In realtà l'indagine si chiamava Domus Libera, questo nome latino altisonante, questi nomi di indagine che spesso usano le procure per far sembrare delle cose più grandi di quello che sono nella realtà. Cosa dire? Come hai detto, è sorprendente che si sia arrivata a un giudizio di condanna per un reato associativo, perché quello che colpisce e che colpiva fin dall'inizio è che in questo caso il comitato abitanti Giambellino veniva individuato quale associazione a delinquere, nonostante gli stessi investigatori, la stessa procura abbia riconosciuto sin dall'inizio che nessuno scopo di lucro coinvolgeva il comitato e ovviamente gli appartenenti al comitato. Ecco, Eugenio Losco, venendo al processo, come è andato e cosa ci dicono queste pesanti condanne? L'associazione a delinquere, tra l'altro, è stata utilizzata di recente per criminalizzare anche il movimento Notav e attivisti e attiviste del sindacato di base Sicobas. Sì, guarda, conosco benissimo la situazione perché io difendo anche il sindacato di Sicobas e lì siamo al momento riusciti a far cadere l'accusa di associazione a delinquere, almeno in questa fase di procedimento cautelare. Il Tribunale di Milano invece sorprendentemente ha aderito in maniera completa alla impostazione che è stata fatta dalla Procura. Sorprende perché il Comitato Abitanti Giambellino non ha alcuna finalità di commettere dei reati, ha una finalità del tutto lecita, che è quella di aiutare gli abitanti di un quartiere, fornire loro aiuto in campo scolastico con l'organizzazione di doposcuola, di altri vari servizi, con la possibilità di avere dei dottori, una medicina, far avere a queste persone che spesso non hanno un permesso di soggiorno una sorta di medicina di base. Venivano organizzati poi degli aiuti anche da un punto di vista alimentare, l'organizzazione di una mensa popolare. Ecco, questo era il Comitato Abitanti Giambellino. Che poi possano essere stati commessi dei singoli reati, delle occupazioni da persone che si trovavano in stato di necessità, perché questo è, bisogna ricordarlo, stiamo parlando di stranieri con figli, spesso mamme abbandonate dai loro compagni. Questa è la vicenda e non riusciamo a capire come il Tribunale non possa aver compreso di che cosa stiamo parlando, per non parlare poi delle pene che in concreto sono state applicate con la sentenza di condanna. Ecco, Avvocato, dato che hai avuto modo negli anni, anche come dicevi, di lavorare e studiare casi e processi diversi ai danni delle lotte sociali in generale, vedi secondo te qualcosa di cambiato, di evoluto in termini di condanne e giro di vite, di pene per attivisti e attiviste in questi ultimi anni? Io direi di sì. Nonostante diciamo il clima non dovrebbe suggerire alle autorità investigative di procedere in questo modo, perché sostanzialmente i movimenti sociali in questa fase diciamo sono una fase di reflusso, vogliamo dire, sono un po' in crisi. L'attività di indagine è aumentata e la repressione da parte dello Stato nei confronti di chi cerca di opporsi a un determinato stato delle cose è aumentata. È noto come c'è un aumento, ad esempio, delle contestazioni dei reati associativi. Questo perché consente anche di poter effettuare attività di indagine più pregnanti, ad esempio quello delle intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali. Ecco, ma non solo, nei confronti di movimenti spesso vengono anche avanzate contestazioni con finalità di terrorismo addirittura. Ecco, sicuramente c'è una volontà repressiva maggiore in questi ultimi anni. A chiudere, Avvocato Losco, dopo questa condanna in primo grado dal Tribunale di Milano, ora cosa succede? Beh, allora, ieri abbiamo avuto la lettura del dispositivo. dobbiamo comprendere quali siano le ragioni che hanno indotto il Tribunale a emettere questa particolare sentenza, quindi dobbiamo aspettare la motivazione che verrà depositata tra 90 giorni. È ovvio che noi proporremo appello perché non riteniamo che sussistano i reati che sono stati contestati, perché a parte l'associazione a delinquere, che come ho già detto è del tutto insussistente in un caso del genere, venivano anche contestati delle resistenze che sarebbero state effettuate nel corso degli sgomberi dalle persone che venivano a dare la loro solidarietà alle persone oggetto di sgombero. Resistenze che anche queste non sono state commesse, non c'è mai stato un episodio né di violenza fisica né di minaccia verbale da parte delle persone che si trovavano a dare solidarietà alle persone sgomberate. Quindi ci sono tanti motivi per appellare la sentenza. Ovviamente dobbiamo aspettare la motivazione. Ringraziamo intanto allora l'avvocato della difesa Eugenio Losco per essere stato con noi, ci risentiremo per nuovi aggiornamenti. Intanto ricordo anche che è nato un comitato di solidarietà, proprio la campagna Siamo Tutti Robin Hood, in riferimento al nome del processo e dell'inchiesta ai danni di 9 attivisti milanesi del comitato abitanti Giambellino Lorenteggio. Avvocato, grazie, intanto un saluto dalla redazione. Grazie a te, ciao a tutti. Un esperimento di vita profondo e importante contro una profonda emergenza sociale causata dalla consapevole distruzione dell'edilizia residenziale pubblica. È questo quello che è stato scritto dal profilo social del Comitato Abitanti e Giambellino Lorenteggio a seguito del primo grado e delle condanne avvenute mercoledì 9 novembre al Tribunale di Milano. Il processo di questi 9 imputati è diventato tra l'altro un simbolo del dibattito sull'emergenza abitativa in Lombardia. Voglio rispondere fortemente a questa accusa. Noi non è che cerchiamo delle case per le persone che poi diamo a qualcuno, cioè questa cosa qua che noi sostituiamo Aler o lo Stato è una bugia per un semplice fatto, perché Aler e Stato qua non esistono. Qua Aler e Stato esistono in un'unica forma, che è la forma della polizia, la forma degli sgomberi. Noi qua non è che facciamo questo mestiere qua, non è un lavoro. Noi qua ci occupiamo di solidarietà fatta dal basso orizzontalmente, non c'è una struttura piramidale, una gerarchia, è una cosa fatta dal basso orizzontalmente da tutte quante le persone che hanno voglia di mettersi insieme per essere meno deboli. Questa è la sostanza della cosa, per cui se delle persone decidono di occupare perché non hanno più voglia di stare dentro una lista d'attesa per oltre 20 anni, io direi che la cosa è più che comprensibile, no? E noi quello che facciamo in questo caso è che la persona decide di occupare, molto bene, noi ti diamo una mano, se arriva la polizia, noi andiamo là e proviamo a fare in modo che non avvenga uno sgombro, perché non ci piace che delle famiglie finiscano per strada. 2000 famiglie a Milano sono in graduatoria, vengono costrette ad occupare, e noi vogliamo dirlo in maniera molto chiara: il vero racket, la vera mafia è l'Aler, è la giunta Sala, è la regione, sono tutti coloro che sono responsabili di questa situazione abitativa. Eccoci, siamo di nuovo qui in diretta e guardate che è una cosa vergognosa questa qua dell'accanirsi su anche su queste così, situazioni qui, su queste lotte, su queste su questi compagni qui. Davvero, sì, cioè se passano anche queste cose, poi non so cosa deve passare ancora. Allora, a questo punto della nostra puntata di oggi sono le 9:08, il 21:08, e rimane ancora una manciata di minuti per l'approfondimento. Come era stato annunciato, avevamo annunciato appunto questo, queste considerazioni sui due contributi. Allora, i contributi che erano comparsi sui giorni e le notti numero 14 del luglio 2022 e sotto la rubrica corrispondenze, nel senso che in precedenza mi sembra anche su queste frequenze avevamo già parlato di progetto rivoluzionario, c'era già stato un articolo tempo fa, adesso non so dirvi, e anche in influente quando risale, comunque c'era questa questione qua del progetto rivoluzionario, ovvero che si traduce in questo, nel discorso di dire, ma al di là della coazione a ripetere, di agire sull'immediato, su quella che è l'urgenza, no? delle diciamo lotte, quelle che insomma proporzionate a ogni situazione, a ogni territorio, adesso senza volersi insomma immaginare chissà che, però con appunto le dovute proporzioni, al di là di queste urgenze qua, qual è importante chiedersi anche qual è la base sulla quale i compagni e le compagne si associano per lottare, no? In quali contesti si incontrano e che come si configura anche questo incontro e che cosa portano loro, cioè se portano già qualcosa di altro rispetto all'esistente o invece ripetono, diciamo, come diceva quella canzone dei Kina, nessuno schema nella mia vita, cioè ripetono schemi di cose semplicemente trasformate in look, diciamo, diverso, o in gerghi, in modi di dire, insomma, diversi, ma la sostanza è sempre quella del, diciamo, della realtà, del dominio neoliberale, eccetera, insomma, senza via di uscita. Ecco, per interrogarsi su questa questione qua sono comparsi questi due contributi sui giorni e le notti, che vi invito non solo vi invito, così come chi ci ascolta, solo come propaganda, diciamo, della rivista, ma anche per questo motivo, insomma, per il motivo stesso di cui sto parlando, che è quello di, ma insomma, queste riflessioni, queste considerazioni, queste diciamo, come si chiama, contributi al dibattito, qualcuno oltre chi le scrive, qualcun altro le legge, cioè porta un contributo al dibattito, sì o no? Perché è questo il punto, no? della questione. Quindi dicevo, più in là del proprio naso è il primo articolo, che non vi riassumo, insomma, però insomma stiamo parlando di quello, vi invito a leggerlo. E oltrepassare l'esistente, questo è l'altro contributo, cui se mi permetto di anche un po' più prendere un po', per secondo mio punto di vista un po' meno, come si dice, aderisco a quest'altro articolo, è firmato Coca ma non cola, inverno 2020-2021. Allora, secondo me il punto, insomma, l'obiettivo di questo secondo articolo, che è oltrepassare l'esistente, su quale non mi dilungherò oltre, è una cosa che mi ha interessato, è questa, accolto questo aspetto, insomma, la critica è rivolta al, diciamo, alla prospettiva, un parolone, diciamo, storicistica, ma diciamo di dire no, ma ci sono dei fatti messi in linea, no? E quei fatti lì si chiamano progresso, quindi prevedibilmente si va in una certa direzione e noi lottiamo, diciamo, perché non si vada in una direzione ma in un'altra. Questa qua è la prospettiva, secondo chi ha scritto questo articolo, che porta, insomma, disorienta dal mettere a fuoco invece un altro aspetto fondamentale, che è questo dell'età del capitalismo e stato post-industriale, questo che lui è irrovesciabile. Cioè, cosa vuol dire irrovesciabile? Che anche le frecce che gli arrivano, gli attacchi, insomma, le crisi, le rotture che qua e là, insomma, compaiono in questo universo, sono lui le assorbe, le neutralizza, le ingloba, le fagogita, non so adesso, come fosse come fosse un, sì, un organismo, no? E le rimette in circolo e quindi le neutralizza, no? E sottolinea questo intervento, insomma, il fatto che l'alterità la portiamo comunque noi, diciamo virgolette, noi, quelli che lottano, quelli che prospettano una realtà appunto radicalmente altra, e già lottando, insomma, da quello che ho capito io, va anche valorizzato tutte quelle che sono le sopravvivenze della situazione dove si è, del territorio, della situazione specifica, che sia città, sia campagna, sia montagna, sia quello che è campagna, insomma, e là dove ci troviamo esistono già anche là delle entità che sono sopravvivenze e sono dati, fra virgolette, insomma, dell'alterità, insomma, cioè, ci sono già quelli che, non so, adesso io penso anche alla mia realtà quotidiana, ci sono già quelli che, per esempio, ufficialmente non lavorano, portano in giro il cane tutto il giorno e ogni giorno vivono di quello. Quindi ci sono già quelli lì. Cioè, non è che il fatto che loro sono inesistenti per lo stato fiscale, cioè, e quella lì è già una sopravvivenza di alterità, no? Che va valorizzata, che va con il quale, cioè, ipoteticamente va anche cercata un'alleanza, vanno compresi, eccetera, eccetera. Insomma, vanno compresi nel senso, vanno. Non vanno guardati dall'alto in basso, insomma, non vanno intellettualizzati neanche, ma vanno, insomma, considerati come delle sopravvivenze, appunto, di un'alterità rispetto al blocco, diciamo, post-industriale. E questa, io direi, sufficiente, insomma, di quello che emerge da questo oltrepassare l'esistente. Invece vorrei fermarmi ancora qualche minuto su quello che per me è un po' più interessante, l'altro articolo, che è più in là del proprio naso. Cos'è sto naso? Appunto, quello che dicevo prima, l'urgenza del momento, no? Cioè, di non riuscire ad andare oltre le questioni organizzative, le questioni di cassa per spese legali, le questioni di è successo questo, è successo quello, bisogna fare, bisogna andare, eccetera, no? Bisogna, sì, la ricerca di una cornice un po' più ampia, e che è appunto questo modello, questa idea di progetto rivoluzionario oggi, cioè non di teorizzare un chissà dove, chissà quando idea rivoluzionaria, è di dire con quello che si ha, con la realtà del dominio, della repressione che c'è, reali, non, diciamo, non che ce le, non è che noi le ignoriamo, le neghiamo, le immaginiamo diverse da quelle che sono, cioè quelli come noi, diciamo, che sono quelli, appunto, che fanno per riferimento, ad esempio, i giorni e le notti, partendo dal, diciamo, ruolo che hanno le minoranze rivoluzionarie, che sono minoranze, cioè, per non dire un eufemismo, ecco, minoranze, però è importante anche l'aggettivo rivoluzionarie, appunto, perché hanno l'importante di questo, insomma, che recano già, dove arrivano, uno spirito diverso, uno spirito del mondo che vorrebbero veder sorgere. Questa qua è la caratteristica di partenza, no? La questione è, appunto, come fare da questa situazione di minoranza trasformarla radicalmente, cioè quella che è una rivoluzione, appunto, trasformazione radicale della società, deve passare attraverso un cambiamento dei rapporti di forza. Come avviene questo cambiamento dei rapporti di forza? Incominciamo a interrogarci su questa roba, no? Dice l'autore di questo articolo. Dice: per fare un esempio banale, ciò su cui vorremmo iniziare a indagare non è soltanto il come partecipare in maniera, virgolette, intelligente a un riot, uno scontro, no, di piazza, quanto piuttosto come far sì che una partecipazione intelligente a un riot ci faccia fare un passo verso un mondo senza sfruttamento. Cioè, anche questa è una roba, sempre un qualcosa che rimane sempre come un gusto amaro, no? Che resta quando è finita un'iniziativa, una presentazione, qualsiasi cosa, dice, cioè viene sempre da dire un po' così di malinconia, di dire: boh, ma adesso la prossima cosa quale sarà, no? Questa cosa qua, a cosa l'attacchiamo adesso, no? Così prosegue l'articolo, dice, appunto, esamina un po' le cose, chi sono questi qua, queste minoranze, chi sono, che caratteristica devono avere, insomma, chi sono sti compagni, no? Sul discorso anche della militanza che facevamo tempo fa, insomma, su quella che era stata la critica negli anni 70, no? Sulla figura di militanza, si collega anche a queste cose qua. E emerge questa figura, insomma, di compagno o compagna, no? Chi sono questi qui? Sono da quali contesti emergono, no? Sono i contesti, diciamo, diventano, non dico adesso un po', insomma, sicuramente molto pochi, molto ridotti i contesti proprio numericamente, ma anche i contesti offrono poca possibilità di espandersi, no? E appunto il rischio è quello di trasformare sempre la cosiddetta militanza in uno stile di vita, appunto, e basta. Quindi le conclusioni a cui si arriva sono queste qua, insomma: o si guarda, si osserva intorno a sé, mettendo davanti lo schema delle proprie, insomma, così, i propri valori, la propria identità fatta di metodi e forme più o meno categorici, e in base a quelli si modella ciò che ci sta intorno, no? Oppure invece si mette da parte tutta questa roba, questa ingombrante, e va preso atto della realtà, qualunque essa sia, e cercare di capire quali metodi, quali forme di lotta a nostra disposizione possono essere precisi e incisivi su di essa. Tutto qua, conclusione. Veramente, insomma, un contributo interessante, vi invito a leggerlo con una particolare attenzione. Yeah. Bene, questi che abbiamo ascoltato ora sono i Mustang, band giapponese del nord del Giappone, ed era un loro 7 pollici uscito nel 2015 con due brani, Blood Rain, che era quello che abbiamo ascoltato ora, ma anche prima, dopo l'intervento, abbiamo ascoltato l'altro brano di questo 7 pollici, ovvero Poison. Poi, che dire, ci sono un po' degli arretrati di musica che abbiamo ascoltato in precedenza, tra i vari interventi, ma erano dei brani singoli per ogni band, tutti estrapolati da questo 7 pollici split, con all'interno ben 4 band che nell'ordine che li abbiamo ascoltati appunto erano gli Affluente, i CGB, i Contrasto ed i Lud, tutti comunque presi dal 7 pollici che si chiama alla vecchia maniera. Bene, poi insomma siamo anche giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics e che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, e quindi consuetudine vi leggo i nostri contatti se volete scriverci. La nostra mail di posta elettronica è liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci direttamente intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto, intestare ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. E inoltre vi ricordo che ovviamente la puntata odierna, ma anche tutte quelle scorse, come abbiamo già ribadito, potete ascoltare nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, altra cosa che ho lasciato, che non l'ho detto, che in sottofondo durante gli interventi abbiamo ascoltato sempre la band, anzi per questa volta ci siamo ascoltati completamente l'album, cosa che non facciamo mai, la band dove anche abbiamo estrapolato la sigla di questa trasmissione, ovvero i Behind Enemy Lines, che è una band statunitense della Pennsylvania, esattamente di Pittsburgh, e una band che era esistita nei primi anni 2000, fece 3 album e poi la band scomparve, anche se i componenti hanno dato vita a tante altre band. E erano comunque tutti, cioè l'album che abbiamo ascoltato era del 2006, One Nation Under the Iron Fist of God, questi appunto i Behind Enemy Lines, ed era il loro terzo ed ultimo album. Bene, quindi manca proprio pochissimo, ci ascoltiamo per concludere questa band di Cuneo, della zona di Cuneo, loro sono i Fukuoka, dal loro album datato 2019, Spaccati di vita quotidiana. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì.